Allora, ben trovati a tutte e tutti, Radio Wombat o Wombat Radio, come preferite. E questo è un piccolo specialino perché abbiamo un'occasione ghiotta per intervistare una crew bolognese, la Rude Rebel Brigade, e facendoci aiutare da Granenco, che è un esperto di queste cose, ci aiuta a intervistarli. Ci facciamo aiutare da lui per chiedergli un pochino chi sono, cosa fanno. L'occasione è un concerto che è stato organizzato al Next Emerson a Firenze, e un concerto con un sacco di gruppi, un raduno delle crew, di varie crew. E ci spiegheranno un po' loro meglio di cosa stiamo parlando, che cos'è questo concerto, il perché, il per come è nato e soprattutto cos'è la loro crew, cosa fanno, cosa si dice a Bologna e tutto. Quindi io per prima cosa li saluto. Oh, ciao bello. Ciao. E poi anche Granenco ci deve salutare. Bella lì. Ok, e lascio la parola un po' a lui che dialoga un pochino con loro. Buonasera a tutti. Ringrazio della disponibilità del Next Emerson e la Wombat Radio per questa disponibilità Bella veramente Tazzini. grandiosa. Innanzitutto volevo capire, diciamo, una cosa essenziale, diciamo, in questo ambiente in cui si parla di vari crew, no? Di skin, punk, eccetera, eccetera. Come è partita diciamo, l'idea di questa serata, di stasera, 19 novembre, Next Emerson? Allora, l'idea di questa serata era stata programmata già da qualche mese, cioè noi ci siamo formati nemmeno da un anno, quindi siamo una crew molto giovane e tutti i componenti sono giovani. Di conseguenza, appunto, abbiamo voluto fare questa assemblea tra crew sia nord che sud, appunto per avere un confronto sia di mentalità e di attitudine con tutte le scene e le attualità di strada che ci sono in Italia. E niente, abbiamo fatto questa assemblea e abbiamo avuto dei buoni confronti, sia da nord appunto che dal sud, sia anche da parte dei gruppi che delle crew, per esempio di Genova, della Sharp Milano, e ci sono state molto utili. Sì, quindi figo. No, scusate, raga. No, ma figurati. Ma in realtà, boh, sì, che la serata, fra l'altro, vi confidiamo che noi siamo registrati, quindi ci ascolterete dopo, però in realtà sta per partire, forse è già partito Sì, il primo è già gruppo. partito. Ok, quindi poi i risultati di questa serata li sapremo dopo, insomma. Però per ora sembra piuttosto bella. No, al momento sì, i gruppi sono sei, abbiamo chiamato appunto per avere un confronto sia gruppi del nord e del sud, gli 40-127, gli Antiligos, Cattivo Sangue, Diario di Bordo, Tacita e Upshare Revenge, che vengono da varie regioni dell'Italia. Dai, è forte. Sì. E, insomma, parlateci della vostra crew, visto che avete parlato un pochino in generale di questa serata che avete organizzato. La crew è nata meno di un anno fa, è formata da ragazzi che, il più vecchio diciamo sono io che ho 24 anni, gli altri sono tutti più giovani, quindi sono tutti ragazzi giovani, è nata perché frequentavamo bene o male tutti gli stessi spazi, gravitavamo intorno al vecchio SON, che è l'associazione di Steno, che si occupa di fare di progetti musicali, gruppi musicali, progetti di danza, sale prove, studi di registrazione. È nata un po' l'idea di, visto che non ci ritrovavamo all'interno di altre realtà nel bolognese, abbiamo deciso di crearne una tutta nuova, una nostra, per poter portare avanti insomma, la nostra mentalità skin e punk, unite nelle strade, diciamo, quindi di portare avanti la nostra idea, indipendentemente dalle realtà bolognesi, dal movimento, eccetera. Diciamo così, storia breve, visto che neonati, quindi. Poi si vedrà come andrà a finire. Come il concerto, si vedrà. Sì. No, ma visto che c'è nato di Bologna, no? Ditemi un pochino, di Bologna, che dite del movimento politico che c'è ora, potremmo dire, via? Beh, devo dire, io la conosco poco perché sono a Bologna da un anno. Ho visto una realtà piuttosto frammentata, tra diverse fazioni un po' divise da scazzi personali, come immagino molte realtà, non so Firenze come sia, però meno quello che ho visto io di Bologna. Poi un po' schiacciata dalla repressione in questo periodo. Sono visti un sacco di sgomberi, occupazioni storiche, penso ad Atlantide o grosse occupazioni abitative come l'ex Telecom, insomma sta subendo una forte repressione che non guarda in faccia a nessuno. Ultimamente c'è stato lo sfratto di questo signore, non so se avete sentito così dai notizie di movimento, con 3 bambine sbattuti per la strada, cioè ormai veramente ho visto un po' retrocedere il movimento a Bologna. Me l'ero immaginata un po' diversa, sinceramente, prima di venire a viverci. No, ma prima di andarci ad abitare, avevi un pochino l'idea come era prima Bologna? Non so, varie storie, eccetera, eccetera, come era tipo anni 90, to? No, io sugli anni 90 di Bologna sinceramente sono ignorante, non so bene. No, sinceramente me l'aspettavo un po' diversa, Bologna la rossa, poi... La città più libera del mondo. Io sono di Bolzano, quindi mi immaginavo un po' la realtà. È un po' meglio, sicuramente. Però. Insomma, diceci un pochino delle prossime serate, che insomma, anche progetti futuri che avete in mente di fare, che ne so, a livello o di concerti o varie iniziative che volete fare. Sempre nel campo underground, come potremmo dire. Allora, le prossime iniziative che abbiamo in programma di fare, una soprattutto sarà il prossimo sabato, che faremo suonare i Klaxon, che presenteranno il loro nuovo disco, che sono una band storica di Roma, e abbiamo organizzato sta serata già appunto come questa da parecchi mesi. E poi niente, appunto il vecchio Son sta affrontando una situazione un po' particolare perché il comune gli sta creando problemi, appunto perché un'associazione li vuole tagliare fuori perché diciamo sono scomodi, come si dice, e di conseguenza faremo cene benefit e si sta programmando di fare una piattaforma musicale insieme anche a altre associazioni, altre realtà di Bologna, di crew e di situazione. Scusa se ti disturbo un attimo, ma il vecchio Son, non è, cioè varie voci mi hanno detto che ci sta pure Steno, o no? Cioè non so se è Steno il vecchio Son. Ma chi è Steno? È stato fondato da Steno già dal 98, prima erano soltanto 2 sale prove e poi si è ingrandito e si è trasferito a San Donato. E per noi, io per dire vengo da Perugia, comunque ho vissuto una realtà differente come... di Michele, che lui era di Bolzano, ci siamo incontrati qui a Bologna e per noi è stato un punto di riferimento e ne siamo grati, mettiamola così, perché comunque abbiamo visto che ancora un qualcosa di buono per le strade esiste. Diciamo un punto abbastanza buono, via, in confronto a livello bolognese che avevate parlato prima. Ma scusate se ve lo chiedo, no? Ma questo famoso Steno è cantato in Nabat per caso? Hai rotto il cazzo. Cioè, hai rotto il cazzo. Per forza faglielo dire. Cioè, non... Oi. No, scusate, fate in Nabat, cioè dovevo dirlo per forza, scusate. Cioè è 3 ore che gira e rigira. Ma... perdonateci. Cioè l'intervista era finalizzata solo a farvi dire questa cosa, in realtà. Esatto, datelo a schiaffi. No, schiaffi no, se mi gettate le marce ancora meglio, dai. Sei punk. Va bene, e quindi Granenko, hai altre domande che non siano fatte in Abat o che non riguardino la biografia di Steno? Oppure... se no gli lasciamo andare alla serata, cioè, non lo so. Steno è il cantante dei Nabat, se non l'avevate capito, No, soltanto una piccola domanda, ma proprio così in principio. Dopo questa, diciamo, reunion delle varie crew italiane con cui avete avuto confronto. Diciamo, com'è stato l'esito, positivo o negativo o ambiguo, 50-50? Vabbè, ambiguo direi di no. Comunque è stato sia positivo che negativo, perché comunque abbiamo capito che il disagio, vabbè, come già sappiamo tutti, sta ovunque. Comunque i problemi che abbiamo noi a Bologna, come nel nostro quartiere specialmente di San Donato, dove favoriamo comunque la lotta per la casa, antisfratti e tutto, cioè queste situazioni esistono ovunque. Quindi avere un confronto con soprattutto ragazzi della nostra età, nostri coetanei, non soltanto con gente che comunque la strada l'ha vissuta e il suo l'ha dato, personalmente a me, come agli altri, presumo, gli ha fatto molto piacere sapere che comunque ci sono, c'è un ricambio generazionale, mettiamola così. E siamo molto contenti di questa cosa e appunto ci stiamo mobilitando per far serate, e, a parte le serate, perché comunque non conta soltanto far suonare band, ma anche mobilitarsi per fare qualcosa di concreto, e io lo spero davvero molto. Eh sì, no, ma cioè, nel senso, io vedo a Bologna, non lo so, la conosco poco, però sì, mi sembra un po', tutti mi raccontano una situazione abbastanza ghiacciante e peggiorata parecchio negli ultimi anni. E anche a Firenze comunque, appunto, nonostante sia la meravigliosa, il meraviglioso regno di Renzi, cioè, purtroppo anche per quello siamo sfigatissimi, ci vergogniamo anche tantissimo, insomma, che ve l'abbiamo mandato, ci dispiace sì, tanto. Sì, infatti anche stasera anche Granenko ci ha parlato di Renzi. Sì. Ci dispiace, cioè, ci sentiamo sempre un po' a disagio. Renzi, purtroppo lo vediamo tutti, io fortunatamente non ho la TV in casa. Però comunque ci ha esposto anche le varie nuove occupazioni che ci stanno e che ci sono state, come il Toselli, infatti questa sera li abbiamo voluti supportare con la nostra scena benefit. E ma tipo anche il grande posto Emerson. Esatto. Io lo ringrazio. Appunto, ringraziamo assolutamente l'Emerson per averci dato il posto e per averci dato questa opportunità e anche per averci ascoltato in questo momento, anche se non siamo molto lucidi, mettiamola così. No, ma siete lucidissimi. Siamo distrutti. A verne. A confronto dei vari soggetti che sono stati qua, diciamo, in radio, tipo voi siete più lucidi. Come ti permetti? Ma non capisco come ti permetti. C'è un'insurrezione in corso in regia. E comunque sì, no, appunto, anche noi siamo messi abbastanza male, diciamo che tutti in Italia siamo messi malissimo, del resto anche nel resto d'Europa e nel mondo non è che mi sembra che, insomma, da Trump in poi, diciamo, accidente al meglio. Vabbè, quelli stanno in America. E infatti, che cazzo se ne frega. Però quindi niente, anche secondo me è fondamentale, cioè dal nostro punto di vista è bellissimo che esistano cose come la vostra, perché riuscire a unire la musica a questioni più prettamente politiche in maniera, cioè, esplicita, portare avanti una sottocultura. È molto, cioè, sicuramente per chi fa politica quotidianamente nei posti eccetera è un aiuto fondamentale, è un supporto che dà anche un sacco di coraggio a tirare avanti, quindi insomma diciamo che è reciproco, il supporto lo diamo noi ma anche voi lo date a noi tantissimo. Assolutamente, sono d'accordo. E niente, qua direi di dare la buonanotte a chi ci ascolta. Buonanotte alla, per modo di dire. Alla Rude Rebels Brigade, che è venuta fin qua a ragionare dei loro obiettivi e del loro discorso iniziale a come sono partiti eccetera eccetera, e speriamo che continuino a dimostrare che la strada esiste ancora, che abbiamo che abbia delle creste o delle bretelle. Grazie ancora. Grazie a tutti, e poi stiamo registrando il concerto e quindi poi lo ridaremo anche quello in differita su dai microfoni di Wombat Radio. Quindi grazie ancora a Granenko, grazie a Rude Rebel, grazie, Brigade. Grazie a voi, ragazzi. E alla prossima. Oi. Oi.